figo, assopirsi sul tuo seno, svegliarsi all'improvviso, tutto solo col tuo odore al naso. Facile ti spiego, veleggiare a più non posso, fuggire mentre prego di annegare col tuo mare addosso. Facile e sincero, riscoprire l'universo, vagare sotto un cielo.